surat. Lebih di maya-maya, latanai soladua. Pamisa benawa. Kedeni angin mengiring barati liu-liu umbai manda koda. Si deken lengo-lengo basin-basin na toraya. Suling na to palopo umbai la di papada di pasiala. See you.